Buonasera a tutti e a tutti dalla Val di Susa, e sì, insieme non solo ad altre realtà italiane, ma delle realtà europee, perché domani è una giornata europea contro le opere inutili, le opere devastatrici dei territori, quindi oltre appunto a quelle di Terzigno e a tutte le realtà locali italiane, saremo insieme ai Paesi Baschi, alla parte francese dei Paesi Baschi interessata dall'opera, alla lotta che si è sviluppata anche a Stoccarda contro la nuova stazione e a tante altre piccole realtà di lotta e di resistenza, insomma, a quelle che sono le imposizioni di chi ci governa e delle banche e della finanza. Il clima qui è ottimo perché cominciamo già stasera con una grande assemblea che si terrà ad Avigliane, in un centro qui vicino, dove avremo dei collegamenti Skype via Skype con queste realtà, quindi sapendo che è fondamentale ed è un insegnamento antico, insomma, che l'unione fa la forza e che più si è e meglio è, questo è, insomma, un segnale forte che viene dato anche a livello europeo, perché poi spesso i fondi che vanno a cominciare queste grandi opere vengono anche da sovvenzioni del Parlamento europeo, e quindi è giusto che sappiano, insomma, che intanto non ci sono accordi con i territori, che è uno dei motivi per cui loro potrebbero non finanziare queste opere. Il governo invece va dicendo che qui siamo tutti d'accordo, in Val di Susa non è così, l'abbiamo anche, insomma, dimostrato costruendo un presidio dove dovrebbero cominciare i lavori all'inizio dell'anno prossimo. Il cantiere, abbiamo appunto già costruito, edificato un presidio che è stato già subito anche oggetto delle forze dell'ordine, perché, insomma, sono state denunciate le persone, alcune persone identificate che l'hanno costruito, ma è stato anche collettivamente a livello massificato, questi sigilli sono stati non considerati e quindi li abbiamo rotti, abbiamo continuato a costruirlo e ci prepariamo quindi forti anche di questa esperienza. Il presidio l'abbiamo inaugurato domenica scorsa, l'altro ieri, insomma, l'8 dicembre l'abbiamo inaugurato in occasione della giornata che era stata quella mirabile giornata di lotta che fu Venaus nel 2005, quando riprendemmo appunto posizione là dove eravamo stati cacciati dalle forze dell'ordine. Insomma, quest'anno eravamo appunto in un altro luogo che sarà lo scenario delle future battaglie che si svolgeranno se loro dovessero venire a cominciare l'opera. Quindi tra l'altro domani il percorso prevede proprio il passaggio in alcune zone dove le case verranno demolite, insomma si farà un po' finalmente mente locale, proprio passando con il corteo in quello che potrebbe essere lo scenario futuro di questi posti, invece, che hanno comunque anche un loro fascino, che noi amiamo e che, insomma, cercheremo di fare di tutto perché non vengano deturpati. Con una voce unica dire no alle opere inutili che paghiamo noi contribuenti e che servono soltanto, insomma, al profitto dei soliti, e che è possibile dire no e anche riuscire qualche volta a vincere le battaglie, soprattutto se si è in tanti e si sta uniti.